Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Da quando suo marito è morto il 26 luglio del 2013 in un incidente causato da un pirata della strada, un camionista turco che è piombato sulla loro auto in coda sull'autostrada, lei, Marina Fontana, insieme a decine di parenti di altre vittime della strada, si batte affinché il reato di omicidio stradale diventi legge, con l'introduzione di pene più pesanti da 16 a 21 anni rispetto all'omicidio colposo e la revoca a vita, l'ergastolo della patente. Marina chiede tempi certi, per questo ha scritto anche al Premier Renzi che nel giorno del suo insediamento al Senato aveva ribadito l'impegno del governo ad approvare rapidamente il disegno di legge di cui si parla ormai da 4 anni. Se ne parla da 4 anni, ne parliamo da molto tempo anche noi a Melog, riprendiamo questa mattina l'argomento dell'omicidio stradale. Ricordate, abbiamo fatto varie trasmissioni sul fatto che in Italia uno possa impunemente uccidere una persona semplicemente travolgendola con la propria automobile. Dico un paradosso: se io volessi liberarmi di un mio fastidioso collega come Fabrizio Intonti, lo travolgo con l'automobile, rischio meno di tutti. Se poi mi do anche una bella ubriacata prima e sono in stato d'alcol, in stato di ebbrezza, giustifico ancora meglio il fatto che non l'abbia fatto volontariamente. Questo non può più andare avanti, ci siamo detti più volte. Finalmente venerdì c'è stata una proposta di legge sull'omicidio stradale, quella del senatore Claudio Moscardelli, che prevede, come avete sentito nella copertina, 16 anni di carcere per gli ubriachi alla guida, pirati della strada, 21 anni in caso di morte di più persone, con la pena accessoria del ritiro a vita della patente. Sembra che, nonostante le tante leggi e tanti tentativi, questa sia destinata ad andare in porto, perché ha l'appoggio diretto e personale del Premier Matteo Renzi, che parte, diciamo, della sua campagna di fare cose per i cittadini, l'ha messa anche in questo. Beh, noi questa mattina vogliamo verificarla a caldo, proprio il primo giorno che se ne parla. Ne parliamo con la persona che ci ha sempre seguito come persona informata dell'argomento su questo tipo di materia. Naturalmente so che sta molto a cuore alle persone che ci ascoltano, perché c'è sempre stata una importante partecipazione a questo tipo di programmi. Ricordo il numero 800240024. Avvocato Gianmarco Cesari, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Cesari è l'avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Ha anche un sito, vittimedellastrada.org. Questa mattina che fate? Stappate lo champagne oppure siete perplessi? Allora, guarda, senz'altro stappiamo lo champagne, perché ogni proposta di legge che si aggiunge sull'omicidio stradale e apre il dibattito parlamentare, anche adesso presso il Senato, ci dà molta soddisfazione. Certo, si rimane perplessi in quanto si ha timore che questa proposta portata avanti dal Partito Democratico, quindi con Moscardelli come capo primo firmatario, prevede purtroppo un minimo della pena di 6 anni, quindi è stabilire ancora una volta una forchetta di pena da 6 in poi. Il grave problema che porta alla riforma dell'omicidio stradale... Che ritorni tutto come prima, che alla fine non cambi nulla. Esatto, perché vedi, basta fare i conti, anche adesso il minimo della pena è da 2 a 7 anni, no? Che poi si aumenta fino a 12 anni, magari se il reato è commesso... Quindi leggo fra le righe, sembra una grande sparata demagogica, però alla fine non cambia niente. Ma sì, perché... Torneranno tutti a casa lo stesso. La pena effettiva è quella minima, perché i giudici e i pubblici ministeri per il reato di omicidio stradale si appiattiscono sempre al minimo della pena e scontano di un terzo per il rito abbreviato o per il patteggiamento, quindi arriviamo a 4. Poi si sconta ulteriormente per le attenuanti generiche che non si negano a nessuno e arriviamo a 2, con 2 anni la sospensione condizionale della pena automatica. Quindi una riforma che prevede un minimo della pena come questa che il disegno di legge presentato prevede consente ulteriormente di tornare a casa dal tribunale in maniera che la pena non è e non si rende effettiva. Fermo là, avvocato, sentiamo Luigi, primo ascoltatore, 800240024. Si è visto, il quadro è molto più complesso delle trionfalistiche dichiarazioni. Poi ci stiamo riflettendo, però dice l'avvocato, sì, ma alla fine cosa cambia? Finirà sempre di fronte al povero padre di famiglia, al povero vecchietto pensionato che gli è partita la capoccia, a fronte al povero straniero che non conosceva bene le nostre leggi, al povero alcolista che, poveraccio, non è colpa sua. Alla fine non cambia assolutamente nulla, perlomeno questo ci fa capire l'avvocato Gianmarco Cesari. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Gianluca. Senta, io no, volevo dire, cioè, appena ho sentito l'argomento ho fatto un balzo sul sedile della macchina perché sono in auto. Io si attento, riesco... rischia di travolgere qualcuno ancora. No, ho bene il controllo del mio mezzo. Io veramente non riesco a capire questi trionfalismi, la legge, l'omicidio stradale. No, tutto si fa questa mattina a meno che trionfalismo. Stiamo ponendo... Ma non da parte sua, ma da parte di chi dice, ah no, finalmente una legge, eccetera, eccetera. Ma dico, intanto è dimostrato che l'efficacia deterrente non funziona. Cioè, negli Stati Uniti c'è la pena di morte per alcune cose, comunque, cioè, non è che ci siano meno omicidi che da noi, in alcuni stati almeno. Ma dico, che vuol dire? Cioè, nel momento in cui una persona è morta, perché di questo stiamo parlando, per mano di qualcuno che sia ubriaco, drogato, irresponsabile, anziano, che non sia capace, che sia troppo giovane e quindi spericolato, ma dico, qual è la vittoria? Che poi lo mettiamo in galera a vita, cioè, o per pochi anni, perché questa sì, è la abbiamo fatto la settimana passata proprio una trasmissione, cioè, sul fatto c'è troppa gente in galera, non sappiamo più come fare. Ma non è quello, guardi, io per strada, Giallo, io vedo delle cose pazzesche. Sono appena uscito dall'autostrada e dico, ci sono dei limiti, la gente se ne strafrega dei limiti, e la velocità è dimostrato che è uno dei primi fattori, ma proprio se ne, in città io vedo delle cose, cioè, altro che 50 km/h, la gente che va a 70. E qual è lo strumento che lei troverebbe adeguato? Il controllo, perché purtroppo in questo paese viviamo sempre l'emergenza. Non possiamo, no? Mettere un vigile a ogni semaforo, scusi. No, ma possiamo benissimo ritirare le patenti, come fanno in Svizzera, che è un paese confinante, come fanno negli Stati Uniti, c'è l'arresto per il limite di velocità, va bene, vai troppo alto, ok, ti sbatti in galera 2 giorni. Cioè, negli Stati Uniti funziona così, voglio vedere, cioè, sull'eccesso, a meno che non c'è l'ubriaco che non risponde pronto delle proprie azioni, cioè, comunque te ne vai in galera 2 giorni. Quindi lei dice, cioè, il pugno di ferro va usato prima. Pugno di ferro prima, non quando c'è una vittima. Mi trovo d'accordo, questo mi trova molto d'accordo. Prima, telecamera. Sì, tranquillo, sennò si altera e poi se le fanno l'alcol test trovano troppa adrenalina in circolo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, salve. Sì. Ascolti, io volevo solo fare una precisazione per il suo intervento precedente e anche dell'ascoltatore adesso, non so se c'è stata già una precisazione precedente, ossia l'omicidio stradale non è, ecco, l'esempio che ha fatto lei, che se investe una persona con la macchina risponde di poco, non è così, attiene all'elemento psicologico, ossia è un omicidio colposo, l'esempio che ha fatto lei, oppure quello che è un omicidio doloso, quindi se lei investe un suo collega e quindi risponde con un omicidio colposo. Sì, ma era un paradosso, ma mi consente fare un paradosso, è chiaro, lo investo, ma dico l'ho fatto per sbaglio, mica sono scemo, e mica dico l'ho fatta apposta, dico, guarda, camminavo per strada in cui improvvisamente non vidi intonti perché il sole mi batteva in faccia, non vidi intonti perché aveva il suo solito vestitino zebrato, camminava sulle strisce, ma no, io direi questo, mica sono così scemo, scusi, non mi ci faccia più di quello che sono. Così come quello che ha detto l'ascoltatore un attimo fa, che si è ubriaco, no, è sempre il fatto che sia ubriaco, rispondo lo stesso del reato. Aspetti un attimo, su questo non sono molto sicuro. Gianmarco Cesare, queste due telefonate. Allora, guarda, prima di tutto l'effetto deterrente della pena l'abbiamo avuto, per esempio, per i reati di violenza sessuale, innalzando la pena. Quindi la pena comunque costituisce un deterrente. Ma con una riflessione, la pena deve servire anche a riconciliare il reo con le vittime e con la società. Parliamo di un caso recente. Ubriaco contromano a 2,47 a Parma, uccise in tangenziale Alessandro Mari. Ho fatto venerdì scorso, è uscita la sentenza del GIP di Parma, il pubblico ministero con il rito abbreviato era sceso da 12 anni a 8 e da 8 il giudice invece gliene ha dati 5 anni di detenzione. Quindi, come vediamo, c'è questo appiattimento. L'omicidio stradale, poi, considerate, noi abbiamo avuto, lo sapete, un incontro col ministro sostenendo che l'omicidio stradale deve essere considerato omicidio colposo, perché non è, appunto per la valutazione dell'elemento psicologico, non si può presumere a priori che una persona per strada voglia uccidere. anche perché la ricaduta poi enorme sarebbe che ogni omicidio doloso stradale non verrebbe mai neanche risarcito dalla compagnia di assicurazioni, certo, che è solo un omicidio, una garanzia derivante dalla della responsabilità derivante dalla circolazione stradale per reati colposi. Allora, noi abbiamo chiesto una pena che venga non stabilita con una forchetta da 6 a 12 come il disegno di legge Moscardelli. Al Ministro della Giustizia abbiamo chiesto di fare un decreto che stabilisca una pena non inferiore a 12 anni. Se si parte con il... Quindi per lei non va, il problema è sulla pena minima, anche 6 anni, certo, di pena minima. Comunque, allora, qualunque innalzamento adesso a 6 anni come minimo rende inefficace la legge. E con gli strumenti che abbiamo noi, fra patteggiamento, certo, attenuanti, in galera non c'è, cioè in galera non è uno strumento deterrente, uno dice sì ma me la cavo, ecco. Cioè non vogliamo vedere persone in prigione, ma non vogliamo nemmeno che uno pensi sì ma così me la cavo. Ma pensiamo all'investimento di Ravenna, Santina Minardi, una signora di 80 anni, falciata sulle strisce pedonali. A questa persona che l'ha investita, il GIP di Ravenna ha concesso un patteggiamento a 6 mesi. Io mi sono costituito con l'associazione come parte civile insieme. Ma questo perché accade, avvocato? Perché c'è una banalizzazione del reato di omicidio stradale. Cioè nessuno pensa che è un delinquente che ammazza una vecchia sulle strisce. Pensano che, vabbè, poi non l'avrà vista. Il procuratore generale, quando io sono insorto di fronte a un innalzamento a una pena di 4 mesi che era stato dato il consenso del pubblico ministero, il procuratore ha detto ma l'investimento pedonale è una fatalità della società. Lo sa perché, avvocato, perché ognuno si mette nei propri panni, cioè, ma se mi accadesse anche a me, quante volte ognuno di noi accade di passare in maniera avventata un passaggio pedonale e tutti naturalmente si sentono in parte complici comunque della possibilità che possa accadere. Non c'è una indicazione così precisa proprio a livello di allucinazione individuale del fatto che sia un reato andare contro al codice della strada e uccidere qualcuno. Maria Teresa. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ma io volevo dire semplicemente questo, che è importante la certezza della pena, perché mio figlio era fermo. Aveva un Harley Davidson fermo ed era stava entrando a casa, un SUV guidato da un ubriaco, essersi scoperto dopo essere anche un infermiere del pronto soccorso, ha perso il controllo, non si sa, l'ha investito. La moglie è stata più fortunata perché è caduta sul ciglio della strada e si è rotta un dito. Lui, mio figlio, è caduto sul selciato, questo gli è passato sopra e l'ha ucciso. Si è reso perfettamente conto di quello che ha fatto, perché è andato a parcheggiare la macchina ed è scappato verso i campi, pensando che se l'avessero arrestato l'indomani non avrebbero trovato probabilmente le tracce delle sostanze nel sangue. Un elicottero della polizia in volo ha visto e quindi l'hanno bloccato e arrestato. L'indomani è stato trasferito in una clinica psichiatrica. Molto probabilmente sarà tutto dovuto a terapie in corso. La strategia difensiva è quella che permette le riduzioni delle pene. Quindi non so se è una legge... Dove è successo questo, Maria Teresa? Dove è successo questo episodio? È successo a Francoforte. Ah, quindi... Vabbè, a Francoforte, quindi non in Italia. No, è successo a Francoforte, il guidatore era tedesco e mio figlio chiaramente era italiano. Eh sì, però sì, con tutta la comprensione è un altro paese, avranno le loro leggi. Certo, è un altro paese, ma siccome... Perché lo dico? Perché c'è questa percezione che la Germania abbia leggi molto più severe. Ma lei dice, lei vorrebbe dire tutto il mondo è paese, su questo c'è una sorta di generale manica larga. No, volevo dire un'altra cosa, se mi permette, che anche le leggi severe possono essere raggirate. Intendo dire, forse quello che bisogna trovare è impedire strategie difensive e elusive. Io non sono un avvocato. Vabbè, l'avvocato fa il suo mestiere. L'avvocato è giusto che ci sia anche di un pluriomicida serial killer. È giusto che l'avvocato metta la sua strategia. E se no, a cosa serve? Il diritto alla difesa è per tutti. Non si può impedire di difendersi. Bisogna fare delle leggi adeguate. Ci fermiamo un attimo, Maria Teresa, dopo il traffico. Melog. Cronache meridiane. La notte brava si è conclusa con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, aveva prima imboccato via Lementana a folle velocità a bordo di una Lancia Y. Dopo una serie di pericolosi sorpassi, la sua presenza è stata segnalata alla polizia municipale, che si è messa all'inseguimento della vettura. Il quarantenne, accortosi di essere braccato dai vigili, non solo non si è fermato, ma anche ha aumentato la velocità, rischiando addirittura di investire due pedoni. Alla fine gli agenti sono riusciti a bloccare la folle corsa dell'auto in piazzale Salvo d'Acquisto, e qui il quarantenne, alla richiesta dei vigili di sottoporlo all'alcol test, ha provato a fuggire a piedi. Poi l'ultimo tentativo di farla franca, la confessione di aver esagerato con il bicchiere per dimenticare il dolore di aver perso la madre. Confessione falsa. Certo, perché sì, quando gli strappa lacrime, sono rimasto orfano, per questo mi sono ubriacato. C'è sempre comunque una maniera per attenuare la responsabilità di chi compie un atto grave nei confronti di un altro essere umano al volante di un'auto. Perché? Perché ognuno si immedesima, l'abbiamo detto prima, nel fatto potrebbe accadere anche a lui, quindi, ma è difficilissimo distinguere quello che è un'attività criminosa, quindi mettersi alla guida di un'auto non essendone nelle condizioni psicofisiche, quindi ubriachi, alterati, drogati, strafatti, allupati, in qualunque maniera comunque possa essere difficile, è quello di magari non stare attenti alla segnaletica, non osservare le regole di prudenza necessarie. Luigi D'Asti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io, è vero che ci si immedesima in chi guida, però tante volte ci si immedesima anche in chi subisce. Quello che volevo dire, secondo me importante, è che l'omicidio colposo è una diciamo, si toglie la vita a un'altra persona non apposta, ma perché si è violato delle norme del codice della strada, in questo caso, o altre leggi. Quello che io non riesco a comprendere è per quale motivo, se io tolgo la vita a un'altra persona, deve essere più grave se lo faccio con l'automobile, anziché, se ne, che ne so, gioco con una pistola e ammazzo un'altra persona. Perché con l'automobile ci vanno tutti, nessuno gioca con le pistole normalmente, nessuno tira le accette per sport. Devono assumersi le responsabilità di ciò che fanno. Io, se uno ha il porto d'armi e non rispetta le norme di sicurezza e uccide qualcuno, fa una cosa non meno grave rispetto a chi invece... Sì, ma lei ha perfettamente ragione, non è percepito ancora nella cultura generale il fatto che, visto che ormai siamo tanti a guidare le automobili, e le automobili hanno sempre caratteristiche di maggior velocità, ma anche maggior sicurezza, però sono sempre strumenti da saper gestire, ecco, nessuno pensa che in realtà siano molto pericolosi rispetto alle persone che possono subire alcune nostre scorrettezze. In fondo una leggerezza sembra una leggerezza, una piccola disattenzione, non sembra un atto criminoso come il lasciare un'arma carica appoggiata su un tavolino. Più o meno dovrebbe essere considerata come la stessa cosa. Bruno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono sulla strada di mestiere perché faccio il camionista, quindi ne ho viste di cotte e di crude, e qualcuno mi ha spinto anche a dover scrivere un libro. Ah, che libro ha scritto? No. Memorie dal camion. Lo scriverò senz'altro. Ah, sì. E siccome qui c'è tempo anche per pensare, sì, però stia anche attento alla strada, non pensi troppo mentre guida. Sì, ma che ormai si guida quasi in automatico. Beh, questo non mi piace saperlo, però sì, ecco. Vabbè, vada avanti. Ecco, il discorso che volevo porre io è che l'uomo, quando si appesta a volare su un mezzo volante, fanno dei controlli esagerati sul macchinario, eccetera. Quando va in immersione sott'acqua, controlla ripetute volte le sue attrezzature, eccetera. Quando montiamo in macchina, giriamo la chiave e partiamo, non guardiamo nemmeno se le ruote sono gonfie. No, lei ha ragione. Oggi, è quello che dicevo prima, le nuove mezzi di trasporto hanno dei sistemi di sicurezza molto raffinati, hanno centraline elettroniche, ma per la stessa ragione sono mezzi da tenere molto più in considerazione. Non puoi guidare un'automobile di ultima generazione come un Umarell guida una 127, che parte, gira e se la pulisce alla fontanella la domenica. Non basta quello. Ha perfettamente ragione il nostro amico. Federico. Sì. Dunque io ho avuto l'opportunità di vivere all'estero, per esempio in Spagna, che è un paese non lontano dal nostro. È semplicissimo, loro attuano dei controlli stradali che sono molto più severi dei nostri. Io per motivi di lavoro ho l'opportunità di viaggiare molto in Europa e in Italia e normalmente percorro autostrade italiane presso le quali è quasi impossibile subire dei controlli effettivi o anche avere delle multe a causa dell'eccesso di velocità. Esistono sistemi come il tutor in autostrada che non esistono in città. Nelle città straniere, faccio l'esempio di Barcellona, superando i 50 km orari in centro o in un tunnel, automaticamente si viene multati per un minimo di 150-200 euro. Credo che arrivati a questo punto, visto che si parlava di tecnologia automobilistica, anche le tecnologie di controllo siano migliorate e quindi è un peccato che nelle nostre città non vengano utilizzate, che sarebbero anche probabilmente una fonte di reddito per i comuni. Sì, ci sono vari sistemi, c'è cioè una specie di mitragliatrice che passa e fa le multe a tutte le macchine in doppia fila, ci sono dei sistemi elettronici di controllo ai semafori per chi passa col rosso, e ci sono telecamere per impedire la gente parcheggi nei parcheggi disabili. Ci sarebbe la possibilità di geolocalizzare e reprimere anche quelle che sono le disattenzioni o le infrazioni al codice, però ci arriveremo, siamo sempre lenti nel nostro progresso digitale. Sentiamo l'avvocato Cesare, Gianmarco Cesari, ricordo avvocato, associazione italiana familiari vittime. L'idea sia che ogni mondo è paese, che in Europa poi non è che siano molto più avanti di noi, o è semplicemente una percezione nell'ascoltare queste telefonate? No, guarda, comunque in Europa c'è una mentalità completamente diversa dalla nostra. In Europa se io so che vado in un locale pubblico e berrò una bevanda alcolica, già non ci vado in macchina, ma non ci va nessuno in macchina, non è che qui c'è anche la cosa del guidatore sobrio, tutti usano il taxi, tutti usano i mezzi, quindi c'è una cultura proprio del rispetto della vita dell'altro. Noi invece in Italia abbiamo, guidando come diceva prima l'ascoltatore, il disturbo della percezione sociale dell'altro, cioè l'altro per strada conta di meno di noi, magari noi scegliamo proprio la macchina grande apposta per poter fare magari i prepotenti. E poi sulla questione della scelta dell'auto, permettimi di dire, veniamo bombardati la sera guardando un bel film in televisione da 5 pubblicità di macchine diverse. La macchina non si deve scegliere per quanto corre, per quanto è bella, che forma ha, quanto mi piace esternamente. La macchina deve essere scelta per quanto ci può proteggere, perché è la garanzia della nostra vita mentre guidiamo. E quindi, come vedi, sono tutte questioni, tanto che noi siamo il paese della Ferrari. Ma guarda, gli spot delle macchine si chiamano emotional, proprio per questo, che devono emozionare. Esatto, e quante macchine vengono chiamate Captiva proprio per incentivare l'acquisto? Ti ricordi, metti un tigre nel motore, negli anni 50. Tigre dell'Est, no? Quindi ecco, la mentalità deve cambiare, ma deve cambiare anche, ritornando al discorso di prima. Andiamo al punto, dimmi i tuoi suggerimenti concreti su questa legge, visto che ancora sta seguendo il suo cammino. I due punti che vorresti cambiati. Il punto che vorrei cambiare, ecco, noi abbiamo fatto come associazione una proposta che prevede non una forchetta da un minimo a un massimo, perché il minimo sarà sempre il minimo da cui partire, per gli sconti delle pene, quindi abbiamo chiesto una pena non inferiore a 12 anni per chi guida in stato d'ebbrezza, in stato di alterazione da stupefacenti, in stato di sostanze psicotrope, ma soprattutto anche contro chi guida con azzardo e temerarietà per alcune fattispecie specifiche del codice della strada. Allora, in questo io ti appoggio, sono d'accordo, ma tu pensa quanto può essere politicamente auspicabile e diciamo demagogico dire, cari cittadini, tutti voi quando vi mettete al volante rischiate senza fallo 12 anni come minimo se sbagliate. Vuoi vedere quanta gente è d'accordo poi su questa cosa qui? Io sono perfettamente d'accordo, comunque ti appoggio. No, io tutte le persone che banalizzano il reato di omicidio stradale gli chiedo, immaginatevi un genitore che strazio proprio trova a piangere sulla bara di un figlio che ha perso per via di un incidente stradale. Grazie avvocato, io immagino anche a me che mi passa addosso qualcuno quando passo le strisce e non mi fa